versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, alle 24, 16, 37, 16 secondi, anche oggi un qualche secondo dopo, ogni giorno sempre dopo. Va bene, andiamo immediatamente al punto del giorno. Questa puntata è un tentativo di farvi riflettere prima di farvi insorgere dividendovi se siete a favore o contro, ed è anche un tentativo di spiegarvi una volta tanto quanto sia difficile il mestiere del giornalista sui numeri e sui conti del nostro paese. Perché? Perché mentre me è in corso in queste ore il Consiglio europeo con il confronto tra Italia, Unione europea, Commissione europea, e vediamo se si chiuderà come vogliono le indiscrezioni, cioè con poco più di quanto il governo già metteva in conto di dover aggiungere nella sua manovra, aveva accantonato 3,4 miliardi, se finisce come da indiscrezioni giornalistiche potrebbero bastare. Ma vediamo, mentre tutta la politica guarda a quello, i giornalisti che si occupano di conti ieri sera tardi si sono trovati di fronte a una inattesa difficoltà. Voi sapete bene che nei sei giorni precedenti la legge di stabilità è stata presentata, in parole povere, non avendo un testo approvato. Abbiamo avuto solo ieri sera il testo, quello vero, della legge di stabilità, cioè controfirmato dal capo dello Stato, bollinato dalla Ragioneria Generale e scritto con la relazione, le tabelle e così via, ed è arrivato appunto ieri sera tardi alla Camera. In che cosa consiste l'imbarazzo? Consiste nel fatto che per sei giorni la legge di stabilità è stata presentata con una semplificazione, diciamo così, quella delle slide, che diceva, ve lo ricordate tutti, 18 miliardi di tasse in meno e 15 miliardi di spesa in meno da spending review. Molti di noi, anche qua è capitato in questa trasmissione, hanno tentato di fare le bucce avendo in mano delle bozze della legge di stabilità, e hanno tentato di dirvi: ma da quello che leggiamo noi, diciamo, i 15 miliardi di euro di tagli di spesa, si capisce che sono indicati 4 dai ministeri, altri 6 sommando 4 alle regioni e altri 2 tra comuni e province, diciamo che fanno 10, gli altri non si capisce bene, di 15 miliardi detti di tagli di spesa se ne vedono con difficoltà 10, sempre a patto che poi si trovi l'accordo con le regioni. Dei 18 miliardi di sgravi fiscali, parecchi di noi, io tra quelli, vi hanno detto: bah, veramente bisogna contare i 3,4 miliardi di aumento delle entrate da evasione fiscale, sono sempre aumento delle entrate, e poi soprattutto gli aumenti di entrata con le aliquote sul risparmio previdenziale, gli aumenti di aliquote per le fondazioni bancarie, gli aumenti di aliquote e così via, i vari il miliardo aggiuntivo di entrate dai giochi legali e così via, e insomma di quei 18 miliardi di sgravi ce n'erano una decina in realtà che erano compensati da aggravi di entrate, ma ne restavano sempre 7-8 di sgravi fiscali, soprattutto l'IRAP, la componente lavoro dell'IRAP, che vale più o meno 5 miliardi e rotti, quasi 6. Allora, qual è la difficoltà? È che ieri sera tardi, quando arriva il malloppone alla Camera, più o meno una risma di carta stampata alta 7 cm con tutto il materiale della legge di stabilità vera, ed era molto tardi ovviamente per avere il tempo per studiarla tutta e scrivere sui giornali, però i giornalisti cosa fanno? Vanno a vedere in sintesi innanzitutto le tabelle, no? Quelle in cui c'è il succo sintetico. Ecco, allora il problema è... e la difficoltà deriva dal fatto che le tabelle della legge di stabilità vera arrivata in Parlamento descrivono una realtà della manovra così lontana e diversa da quella di cui abbiamo parlato per sei giorni che per il giornalista nasce una difficoltà immediata. Come si fa a riferire queste stesse cifre ufficiali che il Tesoro e il Governo mandano alla Camera senza paragonarle con quelle delle slide, senza passare per chi ha dei pregiudizi politici? Qui non si tratta di pregiudizi politici, si tratta di mettere a fianco le tabelle e poi liberi voi di capire che cosa c'è scritto. Allora, io vi dico solo questo, perché poi passo la parola a un collega che ieri sera è riuscito a convincere, per così dire, il suo giornale che valeva la pena scriverne come, sia pur mettendo le mani avanti, dicendo: guardate, noi il tempo per capire tutto non ce lo abbiamo, però questa cosa è così rilevante che ve la dobbiamo segnalare, cari lettori nel suo caso e cari ascoltatori, noi che sempre siamo nelle stesse condizioni di ieri comunque, eh? Allora, la tabella riepilogativa arrivata ieri in Parlamento, per quello che riguarda le spese, le famose 15 miliardi spese in meno da Spending Review, dice invece che ci sono nel 2015 24,3 miliardi di spesa corrente in più e soli 5,7 miliardi di spesa corrente in meno. Quindi i tagli di spesa sul tendenziale sono 5,7 miliardi e non 15 miliardi. Ci sono 24,3 miliardi di spese in più, il totale è che ci sono, a netto tra le due componenti, 18,6 miliardi di euro di spese in più. In più, capite, non 15 in meno. Quanto alle entrate, i famosi 18 miliardi di euro di entrate in meno, nella tabella riepilogativa della legge di stabilità arrivata alla Camera, al Parlamento ieri sera, dice che per le entrate nel 2015, con la legge di stabilità, ci sono 14,7 miliardi di entrate in più e 6,2 miliardi di sgravi, praticamente solo l'IRAP. Il che significa che al netto, tra i 14,7 miliardi di entrate in più e i 6,2 di sgravi, ci sono 8,5 miliardi di aggravi fiscali. Allora, la domanda diventa: come facciamo a spiegarvi che la legge di stabilità dei 18 miliardi di tagli alle tasse e 15 miliardi di tagli alle spese, e invece, secondo la tabella dello stesso governo, la legge di stabilità che prevede non 15 miliardi di spese in meno, ma 18,6 miliardi di spese in più, e sulle entrate non 18 miliardi di euro di sgravi, ma 8,5 miliardi di entrate in più, a netto, compreso lo sgravio di soli 6,2 miliardi che sta nella tabella del governo? Ecco, questa è la domanda. Io mi fermo qua perché sono curioso di capire come la pensa il collega che stamattina ne ha scritto. E il collega si chiama Paolo Baroni, scrive per La Stampa, e per chi volesse approfondire l'articolo oggi è a pagina 4 della Stampa, con il titolo, lo voglio leggere: spariscono 10 miliardi di risparmi, e il sottotitolo: tagli alle spese inferiori all'attesa, le entrate crescono di 5 miliardi, eccetera eccetera. Buon pomeriggio e grazie a Paolo Baroni. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Sì, spariscono anche 5 miliardi di manovra, perché la manovra non è più da 36 ma è da 31 scarsi intanto. È questo che, insomma, ieri sera ci ha lasciato stupiti, che devo dire abbiamo cercato dei riscontri, abbiamo trovato un viceministro, non facciamo nomi, che anche lui diceva è impossibile. Adesso un altro collega di quelli che segue da tanti anni la finanza pubblica mi dice: guarda che probabilmente nella differenza tra maggiori spese e minori entrate ci può essere un problema, diciamo, di definizione contabile, problemi formali, diciamo così. Secondo me salta all'occhio proprio però il problema dei risparmi, dei tagli, i 15 miliardi di Spending Review. C'eravamo già accorti che, come dire, mettere insieme 15 miliardi di Spending Review era un po' esagerato, probabilmente conteggiavano sotto la voce Spending Review cose che non c'entrano nulla con la revisione della spesa, però insomma arrivare a 5 miliardi e 7 di riduzione della spesa corrente ce ne passa. Togliamo i 5 che sono spariti dal conto totale, ne mancano, diciamo, per far quadrare i conti, posto che il deficit invece è sempre, si era detto 11, in questa tabella è 10 virgola, mancano sempre 5 miliardi dalla conta. E poi ci sono i ragionamenti che facevi tu nel dare e avere sulle tasse e sulle maggiori spese. Questa è la tabella allegata al disegno di legge di stabilità arrivato ieri sera alla Camera, che quindi ha avviato, diciamo, formalmente la sessione di bilancio, ed è il documento finale ufficiale bollinato. Fino a 3 ore prima noi avevamo ancora, io non so tu che carte avevi visto, una bozza di articolato che è semplicemente, appunto, la griglia degli interventi, esatto. Ma non riporti i saldi, non riportava, esatto. C'erano tante molte volte i numeri in bianco. Esatto, tantissimi numeri in bianco, il famoso tesoretto che si è detto di 3 miliardi e 4 era puntini puntini, nella versione finale di 3 miliardi, era delle 17.30 del giorno del Consiglio dei Ministri. Dopo era circolato praticamente nulla, aveva intercettato qualcosa in sole 24 ore nei giorni a seguire. Io ieri seguivo non tanto queste tabelle, certo, continuavo a dire alla mia redazione di Torino: aspettiamo il testo, vediamo le tabelle, vediamo i saldi, ci possono essere sorprese, ma a me incuriosiva molto il bonus bebè, che era un'altra di quelle promesse lanciate, diciamo, nell'etere, nell'aria. Subito rettificato, subito corretto, e anche quello poi alla fine modificato nella versione finale, perché Renzi in TV ha detto: bonus mamme a tutti, 500 milioni di euro a disposizione, quindi si sottintendeva che il 500.000 di bambini che ogni anno nascono avrebbero dato diritto automaticamente al bonus, poi in realtà lo stanziamento è diventato di 200. Oggi il Tesoro ha rettificato dicendo: c'è la volontà politica. La volontà politica c'è, però lo stanziamento di 200, però la cifra è di 200. Non ci sono 200.000 bambini, peraltro la volontà politica è di coprire tutto, ma nella stessa norma c'è scritto che l'INPS, monitorando l'andamento della spesa, se trova degli scostamenti o intravede degli scostamenti, segnala la questione al Ministero dell'Economia, che di concerto con il Ministero del Lavoro e della Salute possono intervenire riducendo sia l'importo del bonus, sia rivedendo il tetto di reddito che ti fa accedere o meno al provvedimento. Però restano delle cose abbastanza, cioè voglio dire, i 4 miliardi di spesa che c'erano nelle slide in meno ai ministeri, qua diventano 1 e 1. No, attenzione, nei ministeri ci sono anche 600 milioni di entrate, esatto. Quindi non sono che valorizzano, per dire, la difesa dovrà vendere 220 milioni di alloggi di pregio e non, ecco, anche cose di questo tipo, quindi non sono nemmeno risparmi in senso... Adesso la domanda che ti faccio è, secondo te, la risposta me la dai dopo i 60 secondi di strada, certo. Ma ti faccio prima la domanda, secondo te queste modifiche sono solo tecniche, a me sembra anche un po' di sostanza, si devono al fatto che dopo la struttura tecnica del Tesoro, abbiamo letto sui giornali, il ragioniere generale non aveva bollato, il capo economista del Tesoro Lorenzo Codogno si vuole dimettere, se ne vuole andare, è cambiata al Quirinale perché sono arrivati i tecnici del Tesoro, o c'è un problema di sostanza politica che non torna? La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare di una finanziaria che per 6 giorni è presentata come 18 miliardi di sgravi fiscali e 15 miliardi di tagli di spesa, e che dalle tabelle che ieri sera arrivano alla Camera, firmata dal Presidente della Repubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato, noi leggiamo invece ci sono aggravi e non tagli di spesa, aggravi di spesa, cioè più spesa corrente per 18.6 miliardi e aggravi fiscali, facendo il saldo tra aumento delle entrate e sgravi delle tabelle del governo sempre, e aggravi fiscali di 8,5 miliardi. Ho chiesto al collega Paolo Baroni, ma secondo lui sono banalità tecniche? Questo spiega perché, per esempio, nessuno politicamente è insorto da stamattina, quindi pare che nessuno ci stia facendo caso a questa cosa. Sono banalità tecniche oppure è cambiato qualche cosa con l'intervento dei tecnici del Tesoro o il Quirinale? Io ad esempio vedo che Brunetta continua a ripetere le cose di ieri, dice: ah, le addizionali, la stangata, questa cosa sembra non l'abbia vista. Il lavoro di studio richiederà molti giorni, stiamo parlando di centinaia e centinaia di pagine, decine e decine di tabelle, bisogna non solo avere la voglia, la pazienza, ma anche la competenza per applicarci. Quindi diamo per scontato che ai politici è molto difficile, insomma. Secondo me non basta mai, insomma, io ho parlato con una delle persone con cui mi sono sentito ieri sera, mi diceva: adesso ci vorrà un po' di tempo per meditare, perché bisogna vedere bene, certo. La spending che ci avevano raccontato era già morta da quel dì. Però Paolo, non è un problema innanzitutto, voglio dire, per la stampa serve, i media servono in teoria a far capire, poi ognuno si fa le sue idee, certo, ma non è un problema aver accettato anche noi di essere trattati così nel tempo? Ma quello è certamente un problema. Io non mi stanco mai in questa occasione di tempestare tutti e chiedere la carta, perché la carta è quella che fa testo, cioè è un gioco di parole, ma è così. Non mi puoi raccontare un provvedimento economico senza darmi due numeri o uno schema. Se me lo racconti a voce, A questo punto è fondato il sospetto che la storia, il film, possa essere poi tutt'altro. Questo provvedimento di legge è stato illustrato alla stampa nel corso di una conferenza stampa fatta dopo le 10 di sera, senza nessun testo. Il comunicato finale del Consiglio dei Ministri era ancor meno articolato e preciso delle 27 slide che erano state presentate, quindi assolutamente inutile. Purtroppo alla presenza dei colleghi che c'erano a quell'ora, alle 10 di sera, tanto più in una fase in cui i giornali devono stare molto attenti ai costi, i giornalisti stanno in redazione davanti alla televisione a scrivere, perché non ci sono più le ribattute, non si possono fare più tante ribattute come si facevano una volta, cioè ti chiudi l'edizione e poi aspetti. No, perché giustamente le aziende editoriali devono risparmiare. Poi riscrivi il giornale. E devo dire, le domande fatte dai colleghi presenti in sala stampa quella sera lì erano alquanto imbarazzanti. Nessuno è riuscito a tirar fuori una notizia in più rispetto all'enunciato del Presidente del Consiglio. Io devo dire, SMS e quant'altro, sono riuscito a contattare il portavoce di Renzi, avevo il dubbio quella sera lì del TFR. Che poi abbiamo visto anche quello, no? È cambiato, abbiamo scoperto che è sottoposto a tassazione. Parentesi, nella legge di stabilità guardate che lo Stato si aspetta 2.1 miliardi di incassi aggiuntivi dal TFR, quindi fa una stima molto generosa del fatto che, malgrado se lo prendete in busta ci paghiate l'IRPEF, l'unica cosa che è ribadita e che non farà scattare per chi è sotto la soglia dei 26.000 euro lordi la soglia per gli 80 euro di bonus, prendete il bonus ma pagate l'IRPEF per aliquota che cresce, lo Stato si aspetta 2.1 miliardi in più, ecco, quindi avevi il dubbio. Mi sembra molto ottimistico. Ecco, ho mandato un SMS per chiedere il TFR e non ce l'abbiamo fatta, perché Renzi un istante dopo ha detto va bene il TFR, parliamo domani. Il giorno dopo il ministro dell'economia era alla radio. Io ho fatto arrivare un messaggio anche lì, non si è riuscito a capire niente, sono passati 3 giorni per capire com'era il meccanismo del TFR. Poi è circolata la bozza, abbiamo visto un po' di cose, abbiamo visto la tassazione, abbiamo visto i limiti dell'operazione e poi abbiamo scoperto anche, tu l'hai accennato prima, la tassazione sui fondi pensione e sulle casse previdenziali retroattiva. Retroattiva peraltro, che vanno a comporre un combinato disposto che dal mio punto di vista, io l'ho scritto nei giorni scorsi, manda un messaggio terribile. Abbiamo scherzato. Vi abbiamo raccontato per anni che era meglio mettere da parte in più per la previdenza integrativa e adesso vi tassiamo sopra. Io ricordo a chi ne ascolta, non so che idea vi siete fatti, però è per spiegarvi che è molto complicato a volte, quando non si hanno i numeri da parte della politica, spiegarvi le cose per bene. Voi giustamente state protestando, pensate che noi abbiamo un pregiudizio, non abbiamo un pregiudizio, vi spieghiamo solo che le tabelle arrivate per il momento sono un'altra cosa rispetto alla legge di stabilità. Lo approfondiremo, grazie a Paolo Baroni, intanto continuate con il 24, appuntamento come a lunedì. We'll be right back.